Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiedo scusa per la voce non eccellente oggi, ma insomma si va avanti lo stesso, ci mancherebbe. Allora, ci occuperemo da un lato della borsa, perché continua il FTSE MIB sopra i 17.000 punti, a 17.225 punti. Dopo il rally di ieri di Tokyo, ma oggi ci sono dati molto buoni sulla produzione industriale tedesca e tutte le borse sono in rialzo, mi riferisco anche a Parigi più 0,80%, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,36%, l'America invece è invariata 0,06%, non è veramente cosa. Dicevo, borse su livelli molto alti. E la produzione industriale tedesca nel mese di marzo è cresciuta a sorpresa, oltre le stime. Dopo lo 0,6% del mese prima, ha fatto un 1,2%. Molto bene a Milano, visto che ne stiamo parlando, Pirelli dopo la semestrale più 7% in questo momento, Finmeccanica più 5%, Buzzi Unicem più 4,80%, Esti Macroelectronics più 4,20%, Atlantia più 3%, Ansaldo più 2,20%, come il Banco Popolare e A2A. Il 2% lo guadagna Campari, ma anche Parmalat. Fronte opposto, Intesa San Paolo meno 1, come Monte dei Paschi e la Popolare di Milano. Ne parleremo più avanti, chiaramente. Più debole, volete sapere, di Mediaset, abbastanza tranquilla il titolo, ha fatto un grosso rally in questi ultimi 30 giorni, ha guadagnato il 40%, oggi guadagna lo 0,47%. A questo proposito attendiamo anche, la daremo in diretta, la sentenza sull'appello, in appello chiaramente, sui processi di diritti TV in cui Berlusconi è accusato di frode fiscale, e vedremo che cosa arriverà. Questo per quello che riguarda i mercati finanziari. Parleremo però anche di conti pubblici, perché è in corso l'intervento al Question Time di Enrico Giovannini, ossia dell'attuale Ministro del Lavoro, sul tema non solo esodati, ma anche e soprattutto sul tema della cassa integrazione in deroga. E ne parleremo anche, se tutto confermato, con il Sottosegretario del Lavoro Carlo Della Ringa, che l'altro ieri ha detto ci sarà rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, riguarda 700.000 lavoratori. E troveremo i soldi per questo. Ascolteremo anche un diverso punto di vista tra la necessità o l'esigenza o meno di fare una manovra correttiva, una manovra bis. Perché lo dico? Perché le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo non vanno tutte nella stessa direzione. Faccio notare che già prima della nomina di Enrico Letta si ragionava di una necessità di manovra correttiva. Se adesso il governo mantiene la linea, ossia eliminazione dell'IMU della rata di giugno, e in qualche modo viene ridata la rata dell'anno scorso, servirà comunque trovare questi soldi. Temo che si possano aggiungere alla necessità comunque di avere una manovra correttiva. E anche di questo parleremo, e quindi occasione di investimento in borsa e nelle borse, come mai le borse sono in volo con un'Europa invece in stagnazione, in difficoltà economica. Ripeto, visto che ce lo chiedete, non è solo il Nikkei a Tokyo, che ha i massimi dal 2008, ma anche il DAX a Francoforte, che ha record da sempre, sopra gli 8.200 punti. E tutte le borse europee sono ai livelli più alti sostanzialmente da prima dello scoppio della crisi. Questo va anche spiegato, perché obiettivamente a sentirla così non si capisce perché le borse crescano con prospettive economiche nell'area euro quantomeno incerte, se non negative. 349 238 6666 per i vostri SMS S, tra l'altro il tema europeo resta oggi, sarà nostro approfondimento, perché l'Europa vuole la settimana prossima avere da noi un piano, diciamo, per mantenere i conti pubblici sotto controllo, anche la composizione di spese entrate in questo piano, alla luce appunto delle dichiarazioni anche sull'IMU. Pagina di Focus Economia su Facebook, dicevamo. Allora, rapidamente le altre notizie in breve. Una buona notizia arriva dal fotovoltaico. Perché? Perché l'Italia è al secondo posto al mondo, pensate un po', per la capacità fotovoltaica in esercizio, non quella potenziale. Il rapporto statistico sul solare fotovoltaico pubblicato dal gestore dei servizi energetici stabilisce che il meccanismo del conto energia è stato il motore di questa crescita, e a fine 2012 in Italia c'erano in esercizio 478.000 impianti per una potenza installata di 16.420 MW contro e 18.860 gigawattora, e noi siamo secondi solo alla Germania. Mentre il Brasile conquista, qui andiamo all'estero, un'altra posizione di rilievo, perché dopo l'elezione di José Graziano da Silva alla guida della FAO nel 2011, oggi il Brasile conquista il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, con la designazione di Roberto Azevedo a direttore generale per i prossimi 4 anni. Si insedierà il 1 settembre e raccoglierà il testimone dal francese Pascal Lamy, e questo è comunque un altro segnale di come si stia spostando anche la rappresentanza dei paesi politici, soprattutto economici, a livello mondiale. Nel frattempo scopriamo che, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, la BRIC, la sede a Basilea, i derivati nel mondo sono calati, con gli strumenti altamente rischiosi che amplificano guadagni e scusatemi, e perdite, sono calati a 633 mila miliardi contro i 639 mila miliardi di giugno 2012. E sarebbe stato maggiore il calo senza il deprezzamento del dollaro, che ha aumentato il valore dei contratti in euro e in franchi svizzeri, è calato il valore di quelli denominati in yen. Sarà pure calato, ma 633 mila miliardi di dollari in strumenti altamente rischiosi alla base dello scoppio della crisi del 2008 mi sembra una cifra ancora alta. Ma mentre i derivati restano una cifra enorme, 633 mila miliardi, quelli scambiati fuori dai mercati regolamentati, i derivati OTC, over the counter, per cui quelli ancora più, mettiamola così, spiegarlo sarebbe lungo, ma ancora più rischiosi, ancora più così, appunto, non scambiati in mercati regolamentati, quindi ancora più opachi, si può dire. Beh, intanto i disoccupati giovani nel 2013 toccheranno il record di 73 milioni di persone, con un aumento di 3 milioni e mezzo rispetto al 2007. Il dato è dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ILO, sulle tendenze globali dell'occupazione giovanile. Ancora Europa a due facce. Se in Spagna infatti nei primi 3 mesi dell'anno i fallimenti di aziende, ossia aziende che hanno dichiarato la sospensione di pagamenti o la bancarotta, sono aumentati del 30% rispetto ai primi 3 mesi del 2012 e di quasi il 14% rispetto all'ultimo trimestre del 2012, in Germania invece, come ricordavamo, la produzione industriale cresce più delle stime, all'1,2%, addirittura c'è un'attesa di una leggera flessione, invece la flessione non c'è stata. La Germania intanto fa un altro passo avanti verso l'approvazione della vigilanza unica bancaria europea. Oggi infatti Angela Merkel ha approvato un disegno di legge che autorizza il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble ad approvare in sede di Ecofin di vertice europeo la proposta sulla vigilanza della Commissione europea. Visto che parlavamo di dati aggregati, di dati impressionanti, ce n'è uno che riguarda l'economia, ce n'è uno che riguarda l'economia sommersa. Intanto mi chiedete, ma quanto sono 633 mila miliardi di dollari come cifra? Beh, pensate che l'ammontare dei derivati scambiati fuori dai mercati regolamentati, quindi over the counter, è pari a, ancora adesso, a 316 volte il PIL italiano, cioè a PIL attuale 1600 miliardi quasi, 1580 miliardi di euro, noi potremmo produrre per 316 anni prima di arrivare al valore che hanno in un anno tutti i derivati quotati, trattati in mercati non regolamentati. Però dicevo anche dell'economia sommersa, perché c'è uno studio della Visa Europe che stima che il 10%, vabbè, questo lo stima a prodomo sua, comunque, dell'economia sommersa potrebbe emergere con l'uso dei pagamenti elettronici, della carta di credito. Devo dire che in questo non hanno torto, e noi stessi abbiamo chiesto più volte che a nostro avviso era corretto fare come fanno in altri paesi europei in cui si usano molto di più le carte di credito. Conosco l'obiezione, si va a far guadagnare le banche, dipende, se non c'è commissione sulla transazione, no. Si possono abbassare le commissioni per i commercianti e per gli esercenti, sì. L'altra obiezione è, ma le vecchiette come faranno? Allora io dico, quando sento parlare di vecchiette capisco che è già una scusa, perché se fosse per le vecchiette non dovevamo introdurre nemmeno i bancomat, non dovevamo fare tantissime altre cose. Mi ricordo i tempi dell'euro, la moneta, la vecchietta, insomma basta queste vecchiette. A parte che le vecchiette che vediamo in giro girano con l'iPad e insegnano a me come scaricare le app delle volte, però voglio dire, blocchiamo, manteniamo un alto tasso di nero perché la vecchietta non sa come usare la Visa. Ma per favore, impara anche la vecchietta, e comunque dipende che spese deve fare, non è che elimini completamente il contante, però portarlo a un livello più basso secondo me sarebbe un ottimo modo per combattere l'evasione fiscale. E lo dico a quelli che ascoltano, se volete essere sicuri che il bene o servizio che acquistate venga dichiarato correttamente, pagate con l'avviso, col banco, ma a quel punto il commerciante o chi vi vende il prodotto o servizio, insomma, è in difficoltà, scontrino o non scontrino, perché questa cosa poi registra, viene registrata nel conto corrente. Comunque, dicevo, l'economia sommersa in Europa ha raggiunto un volume di 2.100 miliardi di euro, siamo quasi al 20% del PIL totale, in Italia il dato in proporzione più alto, e il 10% sarebbe recuperabile, cioè 200 miliardi, facendo utilizzare di più i pagamenti elettronici. L'Italia è al terzo posto più alto dopo Turchia e Grecia, visto che noi siamo al 21% del PIL per un valore, stima la Visa, di 333 miliardi. Ecco, infatti qualcuno sta scrivendo, vecchietta niente, mia mamma ha 80 anni, le ho dovuto togliere il bancomat, e questo evidentemente capiva bene il funzionamento. Un altro scrive, mia madre ha 83 anni, usa il bancomat a gogo. Appunto, è la dimostrazione che non possiamo addurre la scusa degli anziani per non introdurre elementi di maggiore trasparenza nei pagamenti, dai. Lo dice chi vuole continuare a fare nero, insomma. E poi c'è uno che dice, ma lei dove le vede le vecchiette con l'iPad, lei un pirla, vabbè, ho solo fatto l'esempio, a parte che l'ho visto, era per dire che è una scusa quella di dare all'anziano sempre dell'incapace di intendere, di volere su strumenti di pagamento elettronico, come se imparare a pagare con la Visa fosse una cosa difficilissima. Dai, andiamo avanti. Piuttosto ragioniamo su quanti esercizi commerciali in questo paese ti dicono la Visa non funziona, è scollegata, il bancomat non ce l'ho. E perché? Allora, sui conti pubblici italiani, dicevo, opinioni un po' diverse nel governo. Il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta dice: se procediamo per gradi è possibile che non serva una manovra aggiuntiva. In ogni caso non possiamo agire sulle tasse. Va bene. I fondi necessari in questo momento, una cifra un po' superiore ai 2 miliardi per compensare i comuni dalla sospensione della prima rata dell'IMU di un miliardo e mezzo. E di un miliardo e mezzo per la cassa integrazione. Il nodo vero però è l'aumento dell'IVA, perché se sospeso costa altri 2 miliardi. La pensa un po' diversamente l'altro sottosegretario dell'economia, Alberto Giorgetti, che ritiene quasi inevitabile una nuova manovra, visto che con queste promesse devono essere reperiti circa 8 miliardi di euro. Lo ha spiegato questa mattina nel programma di Radio 24 9 in punto. Certamente per affrontare la questione dell'IVA, che è stata ricordata su più passaggi e che noi crediamo debba essere affrontata in tempi rapidi, più le altre esigenze pongono la necessità di un intervento, chiamiamolo come vogliamo, ma sicuramente qualche miliardo di euro, penso sotto gli 8 circa, dovranno essere reperiti nei prossimi due mesi, quindi chiamiamolo come vogliamo, ma io mi auguro che sia un intervento che va prioritariamente a tagliare la spesa inefficiente, questo è il nostro obiettivo. Vedo molti messaggi appunto sul tema della Visa, del pagamento con le carte di credito col bancomat. Alcuni scrivono anche l'abolizione delle banconote da 500 euro. Certo, ne sta ragionando l'intera Europa di eliminarle, perché servono soprattutto all'evasione e all'esportazione di capitali. C'è la banconota da 500 euro, io vorrei fare un sondaggio: quante volte l'avete avuta voi nel portafoglio, ma soprattutto quando l'avete avuta nel portafoglio quanto tempo ci avete messo a cambiarla, nel senso che andate in un negozio a cambiare la banconota a 500 euro, per cui è un modo molto comodo per trasportare i soldi in valigia, mettiamola così. E tra l'altro, che mi risulti, non c'è la banconota da 500 dollari negli Stati Uniti. E poi un'ultima notizia e poi andiamo col primo tema. C'è chi mi dice: lei è un ignorante, non conosce, è un incompetente, non conosce la curva di Laffer, crolleranno ancora di più i consumi, aumenteranno i prezzi, vada in ferie. Allora, a parte il fatto che in ferie siamo obbligati ad andare per l'accordo aziendale, per cui stia tranquillo, ma che cosa c'entra la curva di Laffer, che riguarda la tassazione? Quindi se tu tassi meno i ricchi, a parte che in America ha funzionato per metà, vada a leggersi la Reagan Economics, ma che cosa c'entra la curva di Laffer, per cui se tu abbassi la tassazione sui ricchi, questi spendono di più, con il nero e l'evasione fiscale? Cioè, sulla base del suo ragionamento, allora aumentiamo il nero, perché così la gente, non pagando le tasse, spende di più. In realtà quello che abbiamo visto in questo paese è che con il nero uno non spendeva di più, perché non si può comprare 8 forme di grana, 20 paia di scarpe, 4 macchine, no? Quello che succedeva, i soldi restavano dei depositi e poi finivano in Svizzera o in Lussemburgo, in Liechtenstein. 105 miliardi di euro scudati in questo paese, altro che aumentare i consumi, ma per favore. Bene, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema: che cosa ci chiede, visto che parlavamo della manovra, secondo Giorgetti, necessaria per eliminare IVA, IMU e trovare i soldi per la cassa integrazione in deroga, mentre per Baretta non è detto che sia così necessaria se si va per passi, che cosa si aspetta e ci chiede l'Europa? Perché lunedì vi sarà la prima riunione del ministro dell'economia italiano Fabrizio Saccomanni con i colleghi dell'area euro per il vertice dell'Eurogruppo. Allora, qualcuno dice l'hai cambiata la voce? No, ho mal di gola, l'ho chiarito all'inizio del programma, ho una tonsilla che assomiglia a qualcos'altro, quindi cosa devo fare? Però, qui siamo e ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Buonasera Beda. Buonasera. Allora, mi scuso anche con te per la scarsa qualità della mia voce, ma lunedì arriva Saccomanni all'Eurogruppo. Vorranno sapere a livello europeo, immagino, le prossime mosse. Quanta preoccupazione c'è su questi annunci? Leveremo l'IMU, leveremo l'IVA e poi troveremo i soldi per la cassa integrazione in deroga? Oppure l'Europa dice fate quello che volete, basta che i saldi, come si chiamano in gergo, il perimetro dei vostri conti pubblici non cambi? Ah, credo che l'Europa stia vivendo questo momento con da un lato un certo sollievo e dall'altro una certa preoccupazione. Sollievo perché bene o male dopo 2 mesi di trattative, di tira e molla e di grande incertezza, l'Italia ha finalmente un governo e credo che questo faccia piacere alla Commissione europea e in generale all'establishment europeo, perché l'incertezza stava continuando per troppo tempo. Dall'altro evidentemente questo governo è nato in brevissimo tempo paradossalmente e non ha pubblicato un programma vero e proprio. Certo c'è il discorso del Presidente del Consiglio in Parlamento, ma non c'è un programma vero e proprio e quindi questo preoccupa alcuni esponenti comunitari, perché temono che questo governo dovrà volta per volta prendere delle decisioni e negoziarle al proprio interno. Quindi per rispondere alla domanda ho l'impressione che c'è certamente una voglia di dare fiducia al nuovo esecutivo, ma c'è anche molta attenzione sulle sue prossime mosse e in particolare sul modo in cui vorrà coprire la sospensione e la riforma di questa tassa immobiliare, perché l'Europa sta cercando di insistere molto sull'Italia spiegando che è importante ridurre il deficit sotto al 3%, in modo tale da poter uscire dalla procedura di deficit eccessivo e trarne il massimo vantaggio. Il massimo vantaggio, secondo Bruxelles, ma anche secondo il nuovo governo, si traduce in un calo dei rendimenti obbligazionari e quindi un calo del servizio del debito, denaro in più che può essere utilizzato in altro modo. minuti. Allora, questo poi leggerò un po' di risposte sul tema del pagamento delle carte di credito come strumento, uno degli strumenti per diminuire l'evasione fiscale, non l'unico strumento. Devo dare anche una marea di risposte soprattutto a Facebook sul mio attacco ieri ai teorici della decrescita felice. Però vorrei concludere prima con Beda Romano. Beda, la tua sensazione, ripeto, è che al di là delle dichiarazioni giornalistiche, politiche dell'asse Madrid-Roma-Parigi, si riesca ad avere veramente qualcosa per la crescita o resteremo alle dichiarazioni di intenti? Intanto passa l'Unione Bancaria Europea. Ma ho l'impressione che qualcosa si cercherà di fare, si sta già cercando di fare, nel senso che si sta dando più tempo ai governi per ridurre il deficit, ci si sta concentrando più sul deficit strutturale che sul deficit nominale, si sta cercando di spostare l'equilibrio. Il problema è che l'assetto istituzionale dell'Europa oggi prevede 17 bilanci nazionali e fin tanto che i mercati potranno mettere a confronto i 17 bilanci nazionali e quindi valutarli per quello che sono, tra quelli più fragili e quelli più solidi, ho l'impressione che abbandonare il risanamento dei conti pubblici non sia fattibile. Quindi l'Europa deve trovare un equilibrio tra un risanamento che prosegue ma a ritmi meno incalzanti e un uso sempre più incisivo dei fondi europei e dei fondi nazionali che possono esserci per sostenere il rilancio dell'economia. Quindi tu dici, sui conti pubblici nessuno vuole mettere in discussione, però si potrebbe integrare con qualcos'altro, ma tu dici non a breve, dopo settembre? No, non credo che le elezioni tedesche cambieranno granché, il problema è trovare i soldi. Allora, il bilancio comunitario, quello prossimo, quello 2014-2020, prevede del denaro per cercare di aiutare l'occupazione dei più giovani e prevede denaro per la ricerca e lo sviluppo. Il problema è che il denaro è relativamente poco, i governi hanno negoziato un bilancio comunitario al ribasso, addirittura riducendone la taglia rispetto al bilancio precedente, e quindi il volano europeo che avrebbe potuto essere utilizzato attraverso il bilancio comunitario è stato ridotto. Ci sono alcuni filoni che possono essere utilizzati, vanno utilizzati, e si sta negoziando proprio in queste settimane tra Parlamento, Consiglio e Commissione per mettere a punto il bilancio del prossimo settennato. Il tempo scorre e mi rendo conto che bisogna fare molto più rapidamente di quanto non si Su facendo. Questo non ci sono dubbi, però visto che spesso ho criticato anche il commissario Olli Rehn, oggi, e nel salutare e ringraziare Beda Romano, vi faccio ascoltare un passaggio in cui Rehn ha spiegato in un'audizione al Parlamento europeo le quattro lezioni che si possono imparare dal caso Cipro, tra cui appunto rivedere il processo decisionale. There are four lessons, at least four lessons to be learned. Ci sono almeno quattro lezioni che possiamo imparare dal caso Cipro. La prima è che ci deve essere assoluta chiarezza circa i depositi garantiti. A questo proposito, l'Eurogruppo e le autorità cipriote hanno agito rapidamente, apportando correzioni, e hanno sottolineato che i depositi garantiti sono al sicuro in Europa. La seconda lezione riguarda la necessità di un'unione bancaria che abbia tutti gli strumenti rilevanti, come ad esempio il sistema unico di supervisione. L'obiettivo è prevenire gli sviluppi che interessano settori bancari diventati insostenibili, come abbiamo visto con Cipro. Le conseguenze sono state molto negative per l'economia cipriota, con rischi alla stabilità finanziaria dell'area euro. La terza lezione che si può trarre è che quando diventa inevitabile per un paese un sostegno finanziario, è fondamentale agire immediatamente. I ritardi sono molto costosi per l'economia, a livello sociale e per la stabilità finanziaria. Infine, il quarto punto. Dobbiamo riconoscere che ci sono problemi strutturali nel processo decisionale che porta a fornire supporto finanziario nell'area euro e in senso più ampio nell'Unione Europea. Così Olli Rehn. Vedo un'ultima agenzia che devo leggervi: la Corte dei Conti ha bocciato gli ultimi atti del governo tecnico, dal decreto sviluppo alla legge di stabilità. Sulle coperture evidenzia la Corte dei Conti che c'è un impiego in modo improprio di fondi di tesoreria e l'utilizzazione di proventi di giochi e accise dal gettito non affidabile. La legge di stabilità, continua la Corte dei Conti, poi non realizza la manovra. Beh, insomma, è un'accusa quasi di mossa da governo politico più che tecnico, no? L'abbiamo già visto in passato ipotizzare introiti da giochi e accise in maniera non affidabile, dalla lotta all'evasione, per tornare sul tema di prima. A questo proposito, due precisazioni. La prima: nessuno ha mai detto che la lotta all'evasione si faccia con le carte di credito. Sappiamo tutti, lo diciamo più volte, che i grandi capitali vanno beccati, le finte fatturazioni di imprese, di grandi imprese e quant'altro. Nessuno si vuole accanire sui commercianti, sugli artigiani, sui piccoli, fermo restando che poi le tasse però le devono pagare tutti. So benissimo che ci vuole maggiore cautela quando un artigiano ha difficoltà, o un commerciante, un imprenditore, a stare nei sud di settore, l'abbiamo detto più volte, non ci vuole l'accanimento. Però, per favore, non diciamo che a questo punto il nero va fatto, perché sennò non si sopravvive, perché allora a questo punto lo può dire solo chi il nero lo può fare. Torniamo sempre al suo discorso. In secondo luogo, sulla decrescita, molti fan delle teorie della decrescita felice hanno scritto sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Guardate che il professor Pallante, che è uno dei teorici della decrescita felice in questo paese, allievo di Latouche, lo abbiamo cercato e lo inviteremo, così sentiremo anche le ragioni di una decrescita felice. Mi sembra in questo momento che siamo di fronte a una decrescita infelice, visto che non cresciamo, la disoccupazione aumenta e non ho ben capito come faremo a essere felici con un'altra decrescita. Ma ripeto, io ho la mia idea, penso che sia una grandissima balla detta a livello teorico da chi non ha il problema di arrivare a fine del mese o in cassa integrazione disoccupato, però di tutto parliamo, appena Pallante può verrà qua e lo ascolteremo e ribatteremo. Restiamo sui temi di attualità prima di arrivare alla borsa, ripeto che sarà l'approfondimento di tutta la seconda mezz'ora del programma, dalle 6 alle 6 e mezza. La borsa ha chiuso con un più 0,80%, ma insomma Francoforte sui massimi, Milano è a 17.255 punti. Vorrei parlare delle coperture soprattutto sulla cassa integrazione in deroga. Abbiamo già fatto ascoltare le due diverse opinioni tra il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, da un lato che dice è possibile che non serva una manovra correttiva anche per trovare i soldi per la cassa integrazione in deroga, mentre questa mattina da ospite di Radio 24 il sottosegretario dell'economia Giorgetti ha detto no, è quasi inevitabile un nuovo intervento visto che dovranno essere reperiti in tutto circa 8 miliardi tra IMU, IVA e cassa integrazione in deroga. Ecco perché la prima domanda che rivolgo nel ringraziarlo al sottosegretario al lavoro, professor Carlo Della Ringa, anzi onorevole, visto che lei è deputato del PD, buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. A forza di averla come professore mi ero abituato. La prima domanda è, secondo lei come la pensa? Più come Giorgetti o come Baretta? Ma Dio, aggiungere una terza strada da parte... No, può anche essere... Può anche essere la 1 o la 2, diciamo. Sì, io penso che per quando, se fosse una manovra, se fosse un item, un solo titolo, diciamo, la cassa integrazione, non è escluso che si potrebbero trovare risorse da qualche parte senza proprio fare una manovra di tipo classico. Adesso andare a individuare esattamente le coperture è complicato, ma qui stiamo parlando di una cifra attorno a un miliardo e mezzo, che, e questo ne possiamo parlare dopo, va spesa bene, ecco, questo è il punto, non si tratta solo di trovare delle risorse, ma di trovare risorse che possono essere impiegate con giudizio, uno. Però se è la cassa integrazione insieme a l'IMU, l'IVA e poi le altre spese che sono scoperte per la seconda parte dell'anno, che riguarda il prolungamento dei contratti con i lavoratori precari, il finanziamento delle missioni all'estero, eccetera, allora è chiaro che c'ha ragione Giorgetti, che se arriva a una cifra, 7, 8, non so quanti siano, miliardi, per cui è difficile immaginare trovarli senza fare una manovra. Una manovra che fra l'altro non potrà essere buttata su ulteriore deficit o debito, perché noi stiamo aspettando con ansia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, che è fondamentale perché potrebbe dare un altro colpetto favorevole allo spread e in ogni caso ci mette in tranquillità rispetto all'Europa, da cui poi ripartire fra qualche mese con qualche richiesta di flessibilità fiscale, chiamiamolo così, cioè le cose di cui stanno godendo Francia e Germania. Quindi non si crea debito e deficit adesso, sarebbe disastroso, quindi bisogna tagliare, perché non credo che poi per evitare tasse se ne fanno delle altre. Su questo non ci sono dubbi. Mi dica però, sottosegretario, i soldi per la cassa integrazione in deroga ci sono o non ci sono? Perché sono 700.000 lavoratori, abbiamo visto i dati dell'altro ieri. No, si devono trovare. Sì, ecco, no, perché i dati dell'altro ieri mostravano un crollo della cassa integrazione in deroga, ma solo perché l'INPS non aveva i soldi. Certo. è un aumento dell'altra cassa integrazione, perché probabilmente qualcuno cerca di sfruttare fino in fondo la cassa straordinaria, non avendo quella in deroga. Anche perché però, sono gli sgoccioli anche le risorse per i contratti di solidarietà, mi sembra di capire. Non c'è dubbio, anche quelle, certamente. E anche per i fondi di solidarietà. Anche perché nei primi tre mesi sono raddoppiate le richieste di cassa integrazione. Mi sente, ma... Della Ringa, ma quanto ci vorrà in tutto? Perché voi avete stabilito 1,2 miliardi, se ho ben capito, sulla cassa integrazione in deroga, no? Sì. Cioè, che quella, lo spiego a tutti, la cassa integrazione in deroga è quella che viene data appunto in deroga a chi non ne avrebbe diritto, tra virgolette. Sì, chi ha esaurito magari quella normale. O chi ha esaurito quella normale, quindi piccole imprese, commercianti, artigiani, quant'altro. Ma... Sì. No, quella è la cifra, però c'è da dire che si vedrà come rubinetto, nel senso di ci vorranno parecchi soldi, mettiamo a disposizione 1 miliardo circa per soddisfare le esigenze immediate e vediamo poi nel proseguio dell'anno se c'è bisogno d'altro di meno o di più, perché è difficile fare anche i conti, noi stiamo cercando di prevedere quello che sarà il fabbisogno nei prossimi mesi. È chiaro che alcune regioni addirittura hanno esaurito i fondi, quindi bisogna dargli di subito, ma capire quanto ce ne vorranno per i prossimi 6 mesi è giusto una proiezione, una previsione, perché primo non sappiamo l'economia, certo una ripresa, si parla di una ripresa che ritarderà, quindi i prossimi 6 mesi, a meno che questo governo, come tutti sperano, possa dare una svolta, e mettiamola anche nel conto che ci possa essere una piccola svolta, allora a capire quanto ci sarà di fabbisogno. Secondo, i dati che abbiamo a disposizione adesso, questa è una cosa molto importante, parlano delle richieste, ma noi sappiamo che poi a fronte delle richieste l'effettivo impiego di delle casse in genere è molto molto ridotto, arriva anche al 50%, il famoso tiraggio, cioè l'effettivo, perché molte imprese si portano avanti, fanno delle richieste magari di cui non hanno bisogno, o magari fanno delle richieste che non possono essere soddisfatte perché non rispettano i criteri e quant'altro. Quindi con queste incertezze, e trattandosi di soldi che non sono ormai più delle regioni come era prima, ma sono soprattutto dallo Stato, lo Stato deve anche salvaguardarsi, non è che possa buttare lì dei soldi a richiesta una dietro l'altra, deve anche verificare fra l'altro che vengono usate bene, perché lei sa, ormai tutti sanno, non è un mistero, che c'è un po' di abuso di queste risorse. Mi dica un'ultima cosa però, visto che oggi il ministro Giovannini ha parlato anche degli esodati, sono 62.000 domande accettate su 65.000, ma anche lì avete fatto un calcolo di quanti soldi serviranno per tutti gli esodati? No, i soldi ci sono già. Per quei 130.000 più altri 10.000 i soldi ci sono, anzi forse lei parla di 63-65, poi ci sono gli altri 55 mi sembra, lì tra l'altro si dice che non tutti poi alla fine chiederanno, perché se questo succede, che per volte i calcoli sono sbagliati, l'importante è che lì invece si possa risparmiare persino qualche cosa. No, quella è una partita che per quanto riguarda quelli già individuati non dovrebbe dare preoccupazione. Okay. Il problema, come lei sa, è che tutti quelli che da oggi in poi diventano disoccupati, licenziati e la pensione a 3-4 anni, non è più un problema di esodati, ma sarà un problema in ogni caso. :08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla borsa, intesa sia come giornata di borsa che come riflessione sul fatto che gli indici delle borse mondiali, Wall Street che ieri per la prima volta nella sua storia supera i 15.000 punti, Tokyo che il giorno prima per la prima volta dal 2008 supera i 14.000 punti e ha guadagnato il 30% da inizio anno, le borse europee che sono quasi tutte sui massimi pre-crisi, prima del 2008, sui massimi da record Francoforte a 8.200 punti, quindi il tema si impone come tema d'attualità. Prima però di tutto la borsa di oggi, positiva a Milano, devo dire assolutamente in linea con le altre borse europee. Più 0,80% infatti il FTSE MIB a 17.255 punti, Parigi più 0,90, Francoforte più 0,80, Londra più 0,40, Dow Jones più 0,10%, euro su dollaro 1,31,78. Tra i titoli partiamo da Pirelli più 7,30% nel finale, questo dopo i conti di Pirelli, la trimestrale. E allora Chiara Di Cristoforo, buonasera, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Pirelli direi da un lato, e dall'altro invece abbiamo visto Monte dei Paschi, le banche leggermente ritracciare, ma ci sta, meno 1,1 il Monte dei Paschi, meno 0,90 la Popolare Milano, e un po' di cautela invece su Telecom Italia, meno 0,60. Allora Pirelli e Telecom. Sì, esattamente come dicevi tu, Pirelli regina oggi del listino. Ieri c'è stata questa trimestrale che, ricordiamo, l'ha visto degli utili quasi dimezzati, però hanno tenuto i ricavi 1,5 miliardi, che sono scesi solo dell'1%. Era andato bene soprattutto il giro d'affari nei paesi emergenti, sono andati bene i prodotti premium, questo ha compensato il netto calo delle vendite in Europa. Oggi sono arrivate una serie di report di analisti, di giudizi, quello che si sottolinea è che la società ha una forte esposizione in questi due segmenti, che sono proprio quelli in crescita, cioè da una parte i mercati emergenti dal punto di vista geografico e dal punto di vista del prodotto, i prodotti premium. Quindi, nonostante il calo degli utili, le valutazioni sono state tutte ottimiste, tutti che vedono rialzi futuri del titolo e miglioramenti del business. Ricordiamo che i target sono stati confermati e oggi la borsa ha apprezzato. Dall'altra parte citavi Telecom Italia. Stamattina Telecom era particolarmente in calo, perdeva circa un punto, poi sul finale ha recuperato, è arrivato a perdere 1,03, in chiusura meno 0,6%. Oggi giornata di attesa per il consiglio d'amministrazione. In generale ricordiamo che il titolo in un mesetto ha guadagnato il 25%, quindi gli analisti cominciano a dire che bisogna essere attenti e cauti, è un titolo molto speculativo in questo periodo. Cautela anche in attesa del consiglio d'amministrazione. Dicevamo che si è concluso intorno alle 17, non ci sono state prese di posizione ufficiali, ma il consigliere Benammar ha poi fatto alcune dichiarazioni, ha detto che è stato un consiglio molto proficuo, molto utile, che si va avanti sia sull'ipotesi dello scorporo della rete sia sulla possibile alleanza con H3G, con Trenitalia. È un nuovo consiglio di amministrazione, ci sarà tra un mese, quindi di fatto quello che si attendeva, cioè un consiglio interlocutorio non decisivo. Domani comunque ci saranno poi i conti che sono stati approvati oggi. Molto bene anche Buzzi Unicem più 5,60 e poi Finmeccanica più 5,12. Finmeccanica sale anche a seguito di indiscrezioni di nuovo sulla possibile vendita di Ansaldo Energia e Ansaldo STS, no? Tra l'altro Ansaldo STS ha fatto più 2,80% oggi. Sì, esatto, si sono rimossi tutti e due i titoli oggi. Secondo alcune indiscrezioni la coreana Doosan vorrebbe chiudere l'acquisto di Ansaldo Energia entro la scadenza del periodo di trattativa in esclusiva, che è la prossima settimana, quindi la chiusura avverrebbe a giorni. È un'operazione molto attesa dal mercato, perché dal punto di vista patrimoniale permetterebbe a Finmeccanica di avere una posizione un po' più solida. Dall'altra parte, sul fronte di Ansaldo STS, il titolo si era già mosso bene ieri, anche ieri era un più 2,5%. Oggi il Sole 24 Ore scrive che la società resta nel mirino della giapponese Hitachi, che è interessata sia a STS che a Breda. Anche qui i tempi saranno un po' più lunghi, ma comunque un'altra operazione su cui il mercato scommette molto. Allora ci chiede un ascoltatore se abbiamo notizie, anzi segnala che ci sono voci, rumors che Saipem sarebbe stata venduta. Non ci risulta niente adesso, io sono in diretta da un'ora, ma le agenzie no, non mi sembra proprio. Neanche è un'ipotesi, che anche questa è circolata, insomma attenzione ai rumors, dopodiché vediamo se i rumors si trasformano in news, in notizie. Andiamo avanti invece con i titoli. Mediaset, volete sapere, alla fine Mediaset ha chiuso in rialzo lo 0,47%, più 40% in un mese. Tra i migliori e i peggiori segnalo RG Capital come miglior titolo in assoluto oggi, più 13,83, Prelios più 11,11, Camfin, la controllante di Pirelli, più 9,85%. Sul fronte opposto SEAT pagine gialle meno 5,60, Noema Life meno 5, Media Contact meno 4,80, Meride meno 3,10, Energy Ring meno 3,80, Mondo TV France meno 3%, Caltagirone meno 3. E allora, grazie a Chiara Di Cristoforo, dopo il traffico parliamo in realtà di questo rally. Alcuni dicono, beh, insomma, è un rally che prelude a una nuova bolla. Vediamo, ma insomma, è innegabile che non riguardi solo l'Europa, riguarda tutte le borse, diciamo, dei paesi più industrializzati. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia. Minuti, ultima parte di Focus Economia. E allora, le borse. Perché adesso, senza creare finte illusioni, lo dico in maniera molto chiara, però è innegabile, e ripercorriamoli anche questi indici, che da inizio anno abbiamo, lo ripeto perché alcuni hanno detto può ripetere questi indici, quasi non ci credesse. Allora, Wall Street ieri ha superato per la prima volta nella sua storia sull'indice Dow Jones i 15.000 punti. E voi direte, vabbè, l'America che cresce grazie alle politiche espansive, imbarca deficit, stampa dollari, ma cresce. Attenzione, il Nikkei l'altro ieri a Tokyo ha sfondato quota 14.000 punti per la prima volta 2008. E anche qui direte, ma il Giappone ha politiche espansive, stampa moneta, fa investimenti, ho capito. Però tutte le borse dell'area euro sono sopra gli 8.000, sono sopra i massimi toccati nel 2008, addirittura Francoforte è a record da sempre, 8.200 punti, ma Milano ha superato ampiamente i 17.000 punti e nel caso specifico è a 17.255 punti. La domanda è molto molto banale: come mai le borse crescono con un'economia soprattutto nell'area euro che è quantomeno stagnante? Faccio notare che il livello toccato oggi da Milano è praticamente simile al livello, anzi sopra il livello di, sostanzialmente, se pensiamo al minimo toccato nel 2009, siamo tornati a livelli non proprio del 2008 ma molto vicini. Nel 2008 l'indice FTSE MIB valeva praticamente, sostanzialmente, 17.000 punti, 960 a fine del 2008, quindi ci siamo riposizionati su quel livello lì. E allora le borse. E questo fa il paio con l'andamento dei BTP decennali, che è opposto chiaramente. I BTP italiani rendono infatti adesso il 3,8%, ossia il minimo dall'ottobre del 2010. I BTP spagnoli rendono il 4,12%, la metà di quanto non rendevano a luglio, erano all'8,20%, fortunato che si l'hai comprati a luglio. Scendono persino i rendimenti greci, addirittura un anno fa valevano il 32%, cioè la Grecia doveva pagare il 32% per trovare compratori sul suo debito, adesso siamo al 9,9%. Gli USA hanno appena piazzato sul mercato 20 miliardi di Treasury Bill, titoli a breve scadenza. Sapete quanto rendevano? Zero, eppure li hanno collocati. Giovanni Tamburi, presidente amministratore delegato di TIP Tamburi Investment Partners, buonasera. Buonasera. Lei di lavoro prende i soldi dei risparmiatori molto ricchi, diciamo, e li investe, no? In aziende, lo dico, non in borsa, giusto Tamburi? Giusto. Ecco, no, siccome lei molte volte è stato nostro ospite, è chiaro che però li investe anche su titoli quotati, cioè compra quote, capitale di imprese anche quotate. L'ultimo vostro colpo, lo dico per inciso, è stato la settimana scorsa a comprarvi il 20% della holding che controlla il gruppo Roche Bobois, leader mondiale nei mobili, prodotti di arredamento di alta gamma e lusso. 335 punti vendita, in Europa ne ha 270, 27 in America, con un giro d'affari di 530 milioni di euro. Allora, prima di arrivare al commento di borsa, ma che vi viene in mente di comprare un gruppo che vende mobili di alta gamma, design, lusso, soprattutto in Europa, dove l'Europa è quasi tutta in recessione / stagnazione? Chi li compra i mobili? innanzitutto quel gruppo sta comunque crescendo in questi anni e sta crescendo essenzialmente nei paesi emergenti, per cui noi riteniamo che con un brand europeo, in questo caso francese, anche se la maggior parte dei prodotti sono fatti in Italia, per cui diciamo l'anima dei prodotti che questo gruppo vende in 335 negozi nel mondo, per cui una catena veramente immensa, sono fatti tra Forlì e il Veneto, per darvi un'idea, e per cui è un gruppo che ha un'anima molto italiana. Riteniamo che le persone in grado di comprarsi questi mobili di alto livello stiano aumentando in tutto il mondo, perché gli americani, i sudamericani, i cinesi, gli indiani, tutto il mondo arabo ha una grande domanda di questi mobili, e noi abbiamo ritenuto di prendere questo investimento e riteniamo che ci sarà una semplificazione, un'aggregazione di aziende anche con dei brand molto importanti nel settore dell'arredamento di altissima gamma, e avendo la più grande rete al mondo probabilmente ci può essere dei catalizzatori di questa aggregazione. No, questo mi interessa, perché quindi voi credete che, come spesso diciamo anche noi, la parte che si sta arricchendo del mondo, che non è certo l'Europa, contribuirà e continuerà a acquistare prodotti di fascia medio-alta. Ecco l'origine, se ho ben capito, dell'investimento, no? Esattamente. E qui veniamo ai temi di borsa. Un inciso, lo so anch'io che a luglio del 2007 il Mibtel valeva qualcosa come sostanzialmente 43.000 punti e adesso ne vale 17.000. Ho solo detto che siamo tornati a livelli molto alti di borse, in alcuni casi di record, ma comunque tutti sui livelli del 2008 per le borse europee, senza che l'economia dell'area euro abbia dato tutti questi segnali, anzi quest'anno sarà un altro anno di difficoltà. Allora, lei come se lo spiega, Tamburi? Ma innanzitutto, come lei ricorderà e magari anche qualche ascoltatore, quando facevo la chiacchierata di inizio d'anno, che ormai è tradizionale fra di noi da 3-4 anni, assieme al panettone, di dire che il 2013 sarebbe stato un anno per le borse buono, o forse molto buono. Addirittura la domanda finale, se non ricordo male, era sulla percentuale, e io osai dire che un 15-20% la borsa avrebbe guadagnata quest'anno, e per il momento mi pare che siamo in questo canale, per cui era prevedibilissimo. Noi peraltro eravamo pienamente investiti in quel momento, perché proprio ritenevamo che il mercato fosse arrivato a un livello talmente basso nel corso del 2012 che, per quanto era stato fatto un rimbalzo essenzialmente dai bancari e da alcuni grandi titoli nella seconda parte del 2012, ci potesse essere un potenziale, che c'è ancora, perché secondo me il rally di questi giorni continuerà. Probabilmente a cavallo dell'estate ci saranno, come anche l'anno scorso, dei mal di pancia, dei saltelloni anche in giù e anche abbastanza decisi, magari indotti da situazioni politiche o da altro genere, però secondo me l'idea che la fine del 2013 debba essere una fine con un bel segno più rispetto alla fine dell'anno precedente rimane. Quindi lei continua a essere investito. Per inciso, quanto ha in borsa, cioè in titoli o perlomeno in aziende, qual è la vostra esposizione sul mercato? Diciamo quanto sulle quotate e quanto sulle non quotate? Sì, su quante, perché lei lavora come un private equity, cioè compra pezzi o maggioranza o quote di minoranza di azienda. Alcune di queste sono quotate. Quant'è? Circa il 70% sono quotate. E quindi vuol dire? No, chiedo se me lo può dire. Ma diciamo sul patrimonio generale, fra noi e i veicoli con i nostri soci, perché noi rappresentiamo alcune famiglie che coinvestono con noi, sono circa 500 milioni di euro. Che lei ha investito su aziende quotate, non in borsa, ma su aziende, comprando capitale di aziende che poi sono quotate in borsa. Ecco perché mi interessa la sua prospettiva. Detto ciò, quindi il modo di dire inglese, sell in May and go away, vendi a maggio e vai in vacanze, vattene, secondo lei non regge quest'anno? È vero che maggio è in ritardo, però... Ma secondo me può anche reggere, nel senso che, come accennavo prima, ci potrebbero essere tra giugno e agosto un po' di scossoni in basso, perché effettivamente, per quanto io prevedessi un anno 2013 positivo, questi primi mesi sono stati forse più forti di quanto si potesse aspettare, per cui secondo me in maggio non c'è da scappare, ma c'è da semmai acquistare sulle debolezze più che correre dietro ai titoli. Secondo me oggi come oggi non c'è da correre dietro a nulla in particolare. Certamente se ci fosse un ridimensionamento di corsi tra giugno e agosto, in agosto, magari settembre, qualche bel acquisto conviene farlo. Ecco, mi dica una cosa, siccome io immagino che tra i nostri ascoltatori non ci siano tanto speculatori o gente che fa il mordi e fuggi l'intraday, perché insomma, hanno altri strumenti, ma ci siano persone che hanno l'esigenza anche di investire capitali, non dico enormi, chi li ha, ma comunque, e capire cosa fare, perché i BTP, abbiamo detto, stanno le obbligazioni, meno male, ma stanno scendendo rendimenti ormai vicini all'inflazione, 3% lordo, giù di lì. Allora, se io avessi 100.000 euro, e dico veramente se io avessi 100.000 euro, però se avessi 100.000 euro come cifra complessiva, o anche 10.000, lei che consiglio mi darebbe, fermo restando che lei non fa il gestore, lo ripeto, semplicemente si occupa di borsa, perché parte delle aziende di cui ha quote sono quotate in borsa, ma che farebbe? Ma io direi che dividerei in tre il mio patrimonio, che sia 10, 100 o 1000. Un terzo lo metterei in fondi, perché comunque avere degli investitori specializzati in queste cose è certamente una cosa buona. Un terzo in azioni, e in particolare in azioni di aziende industriali e non bancarie e non assicurative, ma industriali, possibilmente esportatrici, per cui le classiche aziende del Made in Italy tecnologico o del Made in Italy puro, in modo tale da essere trainati dalle esportazioni. L'ultimo terzo lo metterei in obbligazioni, anche questo di aziende, per cui corporate e non banche. Starei attentissimo ai subordinati, anzi segnalo che forse Radio 24 non l'ha segnalato, che una banca olandese che ha emesso i subordinati se l'è vista azzerare in pieno accordo con la BCE qualche settimana fa, e nessuno ha scritto una riga su questo argomento, per cui vuol dire che... Ma che banca era? Mi pare che si chiami SDS. No, ne abbiamo parlato ieri parlando di Dissemble, cioè il modello SDS, certo, comunque ha ragione nel dire attenzione ai titoli finanziari. No. È un segnale che secondo me può significare che i subordinati bancari nei prossimi 3, 4, 5 anni possono avere dei rischi, per cui obbligazioni corporate, obbligazioni di aziende medie, medio-grandi o grandi, che secondo me danno un rendimento discreto e il rapporto rischio-rendimento è molto buono. Quindi un terzo in fondi comuni di investimento che faranno la loro asset allocation, un terzo in azioni di titoli industriali non bancari legati all'export e magari anche al lusso, tamburi aggiungo io, esatto. No? Perché certo, visto Made in Italy, sì. Made in Italy. E un terzo in obbligazioni corporate, ma di banche o non di banche? No, non di banche. Non di banche, quindi il classico bond emesso da un gruppo energetico, quant'altro, telecomunicazioni. Nokia, Fiat, General Electric, queste cose qua. Tamburi, poi vedremo a fine anno, visto che lei lo ricordava, almeno a fine anno, poi magari ci sentiamo anche prima, se lei ha avuto ragione o no. Ricordo ancora quando lei chiese scusa per le previsioni sbagliate, uno dei pochi che l'ha fatto in questo programma, però altre le ha lette correttamente. Grazie, in bocca al lupo anche a lei, visto l'esposizione e l'attività. Grazie quindi a Giovanni Tamburi, amministratore delegato e presidente della Tamburi Investment Partners. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni un auguro di buona serata, ci risentiremo domani, tonsilla o non tonsilla, comunque in diretta dalle 17 in poi.